Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, vedo già molti messaggi su una notizia con cui abbiamo aperto anche i GR questa mattina, due notizie che comunque tengono banco e riguardano in parte anche l'economia e la finanza, oltre che il dibattito politico. Una, come molti di voi sanno, riguarda l'allora ministro Boschi e il ruolo avuto nella vicenda popolare Etruria, dopo le dichiarazioni presenti nel libro di Ferruccio De Bortoli, il quale, ex direttore del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, lo sta presentando adesso in questi minuti a Milano. Non escludo di poter avere poter far ascoltare anche alcune dichiarazioni De Bortoli se arrivassero in tempo utile, se no nei GR. Netta oggi la replica della Boschi, adesso vi arriviamo. L'altra riguarda i rifiuti di Roma, anche qui avremo degli aggiornamenti. Il sindaco Raggi ha sostanzialmente tagliato i vertici dell'AMA, via l'amministratore delegato, e arriva un nuovo CDA sostanzialmente arriva un consiglio di amministrazione a tre, che sostituirà l'attuale amministratore unico Antonella Giglio. Tra l'altro ha parlato anche il patron della discarica di Malagrotta, oggi al processo che lo vede imputato in relazione a presunte irregolarità nello smaltimento dell'immondizia. Lui si chiama Manlio Cerroni, il re delle discariche romane. Senza di me Roma il problema dei rifiuti se lo trascinerà per anni, anzi direi per sempre. C'è chi potrebbe obiettare che proprio per questo rapporto con l'ex con il cosiddetto re delle discariche, che Roma non ha mai affrontato il tema di una, ma non possiamo affrontarlo oggi, ne abbiamo parlato molte volte, di un approccio diciamo così contemporaneo, come avviene in altre parti del paese, alle discariche, ai rifiuti, ai termovalorizzatori e quant'altro. Lì si intrecciano interessi, ma insomma ne abbiamo già parlato. Invece quello che faremo in apertura, torneremo come anticipato su Alitalia, perché oggi c'è stata la conferenza stampa dei tre commissari dell'Italia, Paleari, Gubitosi e Laghi, hanno annunciato entro luglio un piano industriale. Parleremo anche di noi, intesi come mondo dei media, per un saggio importante che è uscito in questi giorni, e ne parleremo dal punto di vista chiaramente economico, quindi il dato che riguarda giornali, ma non solo, anche televisioni, in parte anche la radio, cosa sta capitando e soprattutto i numeri che non tornano. Numeri che non tornano nei fatturati, nelle copie vendute e nel modello. Ne parleremo, diciamo, nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda la borsa, oggi poco mosse tutte le borse europee, mi riferisco a Parigi meno 0,1, Francoforte invariata, Londra invece più 0,70% e ancora Dow Jones meno 0,01. A Milano particolarmente male di nuovo oggi Biper Banca meno 5,31% dopo la trimestrale di ieri, che ha evidenziato un utile dimezzato. L'amministratore delegato Vandelli ha frenato sull'ipotesi di un'aggregazione con Unipol Banca. Prismian perde il 3,30%, Unipol il 2,30%, Moncler l'1,70%, Banco BPM l'1,60%, Di Carlo Generali meno 1,40%, ma ieri molto forte dopo la trimestrale. Chi va bene oggi? A2A particolarmente bene dopo i conti, utile di pertinenza più 14% a 180 milioni, più 5,40%, Campari di nuovo molto forte dopo i conti di ieri, già ieri era cresciuta molto, più 4,40%, Mediolanum più 2,80%, ancora Eni, che anch'essa oggi diffuso la trimestrale, utile netto a 965 milioni, Eni guadagna l'1%, Tenaris pure l'1%, Snam l'1,20%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo subito con, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, andiamo subito con le notizie in breve. Le novità, qualcuno mi scrive giustamente sulle novità introdotte dal disegno di legge sul lavoro autonomo e agile, approvato definitivamente in terza lettura al Senato. Se ne è occupato pochi minuti fa, fino a pochi minuti fa, anche Oscar Giannino, ma ci torneremo. Tra l'altro prevede appunto, tra le altre cose, congedi parentali per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS per un massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, paletti per arginare i ritardi nei pagamenti nei confronti dei lavoratori autonomi, spese per la formazione detraibili fino a 10.000 euro annui e ancora la cosetta di SCOL, cioè l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, e che viene estesa anche ai ricercatori universitari, e poi viene disciplinato il cosiddetto smart working, il lavoro agile, quello che si può realizzare anche da casa, non è il telelavoro, è una forma anche di, va oltre il telelavoro, e realizzandolo da casa appunto con strumenti tecnologici. Dunque, vedo che ti hanno istruito bene anche tu, dici termovalorizzatori anziché inceneritori. No, abbiamo raccontato, chi mi scrive, 2 settimane fa in classifica che l'AMA, quindi Roma, il Comune di Roma, spende 18 milioni di euro l'anno per mandare rifiuti ogni settimana in Austria, nella bassa Austria, e gli austriaci non solo ringraziano perché gli danno i romani, ma poi noi tutti 18 milioni di euro, ma ringraziano anche gli abitanti della bassa Austria, perché con quei rifiuti romani, con il termovalorizzatore, riescono a dare elettricità a 130.000 famiglie. Va bene, poi saranno stupidi gli austriaci, saranno stupidi tutti gli abitanti delle zone, penso a quello che noto più spesso, quello a Brescia, che hanno un termovalorizzatore, e avranno ragione i romani a tenersi le discariche a cielo aperto con i gabbiani. Cosa vi devo dire se ogni volta che si cita il termine termovalorizzatore c'è qualcuno che si alza e dice ecco? Allora, per quello che riguarda l'economia internazionale, da segnalare la dichiarazione di Mario Draghi, che oggi, parlando sostanzialmente al Parlamento dell'AIA in Olanda, ha detto: l'economia dell'area euro mostra una fase di ripresa più solida, e la politica monetaria della BCE ha aiutato questa ripresa. Le misure adottate dalla Banca Centrale Europea sono state molto efficaci nel contrastare la crisi molto grave che ha colpito l'area dell'euro. A chi poi ha fatto notare dal Parlamento olandese che in Olanda Draghi non è un eroe come lo è invece nei paesi ad alto debito come in Italia, Draghi ha detto: non sono un eroe, non è il mio lavoro essere un eroe, semplicemente proseguo il mio mandato, che è la stabilità dei prezzi. Non spetta la Banca Centrale Europea preparare il terreno in vista dell'impatto della fine del quantitative easing, e poi sono i vari paesi che devono prepararsi alla fine dell'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. E sull'inflazione poi Draghi ha detto: ancora non ci siamo, le condizioni non permettono comunque ancora un'uscita dal quantitative easing, dall'acquisto di titoli di Stato stampando euro. L'ipotesi dell'Italia fuori dall'euro non ha la minima base, botta e risposta con un deputato olandese che richiamava le osservazioni fatte in passato sull'ipotesi di un'uscita dell'Italia dall'euro. Sì, gli olandesi da sempre insomma, sono alleati fortissimi della Germania. Noi abbiamo detto delle volte scherzando: paese satellite, senza offesa. Andiamo all'Italia. Dunque, vedo che c'è qualcuno che continua sull'inceneritore: te lo portiamo a casa tua l'inceneritore di Brescia, così produci calore e respiri, diciamo, cacca. I rifiuti zero è la strada. Ma sì, ma guardi, i rifiuti zero è la strada, il rifiuto è una risorsa, se non bruciato e sepolto. Sì, tutto bene, intanto mi dica però, sai, le chiacchiere stanno a zero. Ditemi se sono pazzi tutti quelli che utilizzano i rifiuti per produrre energia elettrica, o è meglio tenere in discarica a cielo aperto, dai. No, ma certo, vedo anche altri che appunto hanno su WhatsApp la foto degli ulivi pugliesi, quindi capisco già l'orientamento. Vada lei a viverci a fianco di un inceneritore, ma lei come fa a dire che i termovalorizzatori non siano dannosi per la salute? Ma perfetto, cioè esiste anche l'altra ipotesi, che siano dei pirla tutti gli italiani e gli europei che stanno adottando i termovalorizzatori per produrre energia elettrica. Ma va bene, la terza via qual è la terza via? Io vedo che c'è un'unica via in questo momento, che Roma è un immondezzaio, che la gestione dei rifiuti a Roma, come a Napoli qualche anno fa, è da sempre in crisi, è da sempre emergenziale, che ogni volta che si propone qualcosa, secondo me per interessi anche occulti, di tangenti, quant'altro, nel napoletano, dove la Camorra ha, come diverse inchieste hanno dimostrato, un interesse diretto nella gestione dei rifiuti, a Roma, insomma, vediamo cosa succederà dopo la fine delle inchieste, dei processi. Faccio solo notare che a Roma e a Napoli non si riesce a uscire ciclicamente dal tema dei rifiuti. Roma è in questo momento uno schifo in molte parti della città, e non lo dice il sottoscritto, ma se va bene così, va bene. L'importante è dire che sono pazzi bresciani, che sono pazzi gli austriaci, ma va bene, dai. Dio mio. Allora, andiamo avanti con, visto che parlavamo di energia, oggi il ministro dello sviluppo economico Calenda, in audizione con il ministro Galletti sulla strategia energetica nazionale, ha detto l'uscita totale del carbone per l'Italia è possibile entro il 2025-2030. Noi oggi siamo davanti a uno scenario che noi chiamiamo inerziale, per il quale a ritmi differenti vanno sicuramente fuori una serie di impianti nel nord Italia. Nello scenario in cui c'è un phase out del carbone totale, compresa la Sardegna, determinano un investimento in rete in delta da 1,1 a 1,4 miliardi, un investimento in ulteriore capacità generativa che sta, diciamo, tra 700 e 800 milioni di euro, perché ovviamente tu devi avere nuove centrali che entrano, e poi devi fare un po' di altre infrastrutture a gas. Ci sono poi degli stranded cost, vale a dire tu più anticipi il phase out del carbone, più devi pagare delle cose. L'uscita totale del carbone dal 2025 al 2030, diciamo in uno scenario che sta tra il 2025 e il 2030, è possibile, costerà una cosa che è vicina ai 3 miliardi di euro rispetto allo scenario base, ma soprattutto c'è un tema fondamentale delle tempistiche autorizzative, in particolare per le nuove capacità di produzione. Allora, credo che il tema, adesso ci arriviamo anche alle dichiarazioni sul... Mi fanno notare alcuni ascoltatori che vivono, uno a Bologna vicino a un termovalorizzatore che gli dà anche riscaldamento, un altro a Pero vicino a un termovalorizzatore, quelli di Brescia, un altro mi scrive dalla Germania, hanno un termovalorizzatore che dà energia elettrica e nessuno si lamenta, però vedo che ci sono alcuni che dicono no, anche a Bolzano c'è invece un inceneritore che dà c'è un termovalorizzatore che dà problemi zero, per carità. Sono tutti stupidi gli altri, meglio stare come si sta tra la terra dei fuochi, che come termovalorizzatore mi sembra che vada bene, e la gestione dei rifiuti e i gabbiani di Roma, che io pensavo fossero degli uccelli belli, i gabbiani, mi ricordavano Livingstone, poi mi hanno spiegato i romani stessi che, attento, i gabbiani popolano grazie alla monnezza, va bene, a me ricordavano il mare, figuratevi un po'. Allora, la Boschi, dunque, no, la cosa interessante secondo me nella vicenda della Boschi è che ancora non abbia parlato nessuno da Unicredit, men che meno all'ex numero uno Ghizzoni, la notizia la conoscete, Unicredit ha detto che come suo costume non rilascia alcun commento, nel libro Poteri Forti che in questi minuti sta presentando Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere del Sole 24 Ore, c'è un passaggio in cui De Bortoli scrive che l'allora ministra delle riforme Maria Elena Boschi nel 2015 si rivolse all'allora amministratore delegato del gruppo bancario Unicredit Federico Ghizzoni per chiedergli di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Replica la sottosegretaria, attualmente sottosegretaria Maria Elena Boschi, su Facebook, dice: non ho... è l'ennesima campagna di fango, ho dato un mandato legale per la tutela del mio nome. E poi l'ha ribadito anche oggi, la misura è colma, ho già chiarito in Parlamento. Quello che dovevo dire per quanto riguarda la vicenda legata alle anticipazioni del libro del dottor De Bortoli, l'ho detto ieri pubblicamente. Sulla vicenda sono già intervenuta in Parlamento il 18 dicembre del 2015 e ribadisco, confermo quanto detto in Parlamento rispetto alla vicenda. Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. Ancora, dico, non abbiamo ancora voci dalla conferenza stampa di De Bortoli, quindi immagino le daremo nei GR appena arriveranno. La vicenda di Roma l'abbiamo già ampiamente anticipata, giustamente mi scrivono alcuni ascoltatori adesso, beh, ma se i bresciani, i lombardi, gli emiliani e gli austriaci cominciassero a pensarla come certi ascoltatori che le scrivono anche da Roma, chi se li piglierebbe i rifiuti romani? Piccola domanda, le tonnellate, adesso vado a riprendere il dato che costano 18 milioni di euro l'anno, chi se li prenderebbe se tutti facessero il ragionamento che fanno queste anime belle contro i termovalorizzatori? Ognuno si tiene i suoi rifiuti, mi dite come fanno a Roma, visto che già adesso non riescono a gestirli con i treni che partono ogni settimana per l'Austria. No, ma chiedo, ma se domani si sveglia un austriaco e dice, sapete che c'è, avete ragione voi, a Napoli, a Roma, niente termovalorizzatori, perfetto, ognuno si tiene i suoi. Bella così, è bello fare gli artisti e i teorici senza mai proporre soluzioni. Allora, il sindaco Raggi ha detto: i rifiuti in strada sono vergognosi, i cittadini hanno ragione, per questo ci stiamo impegnando senza sosta. Gli impianti AMA sono già al lavoro 24 ore su 24 per una pulizia straordinaria. Abbiamo messo in campo una task force per evitare cassonetti stracolmi e ringrazio i dipendenti dell'AMA che stanno lavorando in questi giorni. L'AMA ha cambiato i vertici, come dicevo, sono pervenuti al Campidoglio 140 curricula. Vi sarà un nuovo consiglio di amministrazione formato da 3 persone che sostituirà l'attuale amministratore delegato unico Antonella Giglio. Resta il direttore generale Stefano Bina, e poi appunto la dichiarazione di Cerroni, che ha detto appunto il re delle discariche romane, quello padrone della discarica di Malagrotta, senza di me Roma il problema dei rifiuti se lo trascinerà per anni, anzi direi per sempre. Vabbè. (349) 238 6666 per sms e whatsapp. Ripeto, non sto pontificando, ho solo chiesto a questo punto la soluzione alternativa, visto che la discarica non va bene, il termovalorizzatore non va bene, la soluzione alternativa. Andiamo però sull'Alitalia, perché oggi i 3 commissari si sono presentati e hanno presentato soprattutto, oltre che loro stessi, il piano industriale. Sì, vedo che mi sta arrivando proprio una lista di, anche a Monte Carlo c'è l'inceneritore, ma pure lì si sa che non ci tengono al rispetto ambientale a Monaco. E poi a Schio mi scrivono gli ascoltatori, il termovalorizzatore di Schio produce anche acqua calda per il vicino ospedale. Va bene. Allora, l'Alitalia, in realtà il piano industriale arriverà a luglio. Beh, obiettivamente non potevano dettagliarlo ora, dopo pochi giorni. Stanno valutando i piani industriali esistenti e nell'arco di un mese e mezzo, quindi entro giugno, sarà effettuata la verifica dei piani esistenti e il nuovo piano potrà essere fatto in altre 4 settimane, quindi entro luglio, già disposta la prima tranche del prestito. Allora sentiamo sia Paleari, Stefano Paleari, uno dei commissari straordinari, e poi invece l'altro commissario Enrico Laghi, già disposta la prima tranche del prestito. Uno dei compiti è quello di sottoporre ad una valutazione i piani industriali esistenti, e questo sarà fatto, è in fase di svolgimento in questo momento, e si prenderà 4 o 6 settimane, diciamo entro il mese di giugno la verifica dei piani esistenti sarà effettuata, e poi ovviamente l'obiettivo è quello di stendere un piano che tenga conto delle nuove condizioni e quindi un piano che tenga conto della situazione in amministrazione straordinaria della società, che individui il posizionamento strategico e che elabori una strategia e un piano rinnovato, e credo che questo possa essere fatto, direi, in altre 4 settimane, quindi entro il mese di luglio. Come diceva il professor Laghi, entro l'estate noi saremo in grado di fare una prima valutazione complessiva su questi mesi di attività. Ad oggi, per quello che riguarda l'attuazione del decreto legge e quindi del finanziamento che lo Stato ha inteso erogare a beneficio di Alitalia, abbiamo provveduto a formulare l'istanza che è stata autorizzata da parte dei ministeri competenti, quindi Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tempi rapidissimi, e vi è già stata la disposizione da parte della Ragioneria Generale dello Stato del pagamento per la prima tranche di questo finanziamento. Le condizioni sono quelle individuate all'interno del decreto legge, sono delle condizioni che sono state verificate per le vie brevi con gli uffici competenti della Commissione Europea e abbiamo trovato riscontro positivo, al punto tale che la disposizione di pagamento è intervenuta e oggi stiamo operando in continuità anche grazie a questo finanziamento. Oddio, dico oddio perché mi è arrivato un messaggio, dice: un bellissimo programma rovinato dal conduttore. Ho capito, non si può avere tutto nella vita. Poi rispondo anche a chi mi scrive sui termovalorizzatori da tutta Italia, però vorrei andare avanti su Alitalia, perché il terzo dei 3 commissari, Gubitosi, Luigi Gubitosi, ha detto: tra qualche giorno arriverà la scelta dell'advisor. Non stiamo invitando gli advisor a quello che si chiama beauty contest, però non stiamo ancora parlando con nessuno in maniera diretta. Non stiamo ancora parlando con nessuno sì, ingaggeremo un advisor, uno più advisor, e stiamo invitando in questo proprio tra oggi e domani, stiamo invitando alcuni advisor a un, usiamo il termine inglese, beauty contest, per presentarci le loro idee su quelle che possono essere le opzioni strategiche. Quindi nel giro di qualche giorno avremo identificato i nostri advisors. Allora, saluto intanto per averci raggiunto in collegamento il professor Carlo Scarpa, che insegna politica economica, economia politica all'Università di Brescia. Buonasera, professore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Poi magari una battuta me la fa anche sul termovalorizzatore di Brescia, perché mi stanno massacrando oggi gli ascoltatori. Gli inceneritori me lo scrivono anche a Villac, c'è un inceneritore, un termovalorizzatore. Insomma, lei è preoccupato di vivere accanto, visto che insegna a Brescia, accanto al termovalorizzatore di Brescia? Ma assolutamente no, è stracontrollato. Sono assolutamente tranquillo rispetto a quello che fanno i colleghi di A2A. Il problema è quelli che è dato da coloro che non gestiscono il tema dei rifiuti. Quello è il vero problema. Gestirlo bene ti dà la soluzione. Sì, anche mi scrivono anche da Parma, ci sono gli studi che attestano il poco inquinamento dell'aria. Vabbè, comunque dai. Una domanda la voglio fare però a chi mi scrive, visto che arrivano anche una marea di insulti. Qualcuno mi dice che Napoli il problema l'ha risolto, infatti io citavo la Napoli di anni fa e la Roma di adesso. Una domanda, poi vado sul traffico, sul meteo, poi ascoltiamo anche le ipotesi di azioni esercitorie, le azioni di responsabilità da parte dell'Italia e la battuta di Montezemolo di ieri. Tutti quelli che mi scrivono, immagino da Roma, sul fatto che non serve il termovalorizzatore, mentre altri mi dicono: guardi che ci facciamo anche riscaldamento a Brescia, in altre parti del paese, immagino che siano a posto con la loro coscienza quanto a raccolta differenziata. No, perché lo dico, perché va ben tutto, ma siccome la raccolta differenziata arriva a Roma al 43% contro livelli molto diversi nel resto del paese, Vorrei sapere se tutti quelli che scrivono sono a posto con la loro coscienza, cioè la differenziata la fanno veramente, perché il livello della media romana della differenziata è bassino, per non dire basso. Meteo e pubblicità. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. L'Italia, quando fa comodo, era azienda privata. Quando però si trattava, faccio un esempio, di cancellare per esempio alcuni voli in certe tratte, no, non lo si può fare perché si mette in crisi le regioni o le città. È mancata secondo me una politica generale di trasporti, anche se devo dire che negli ultimi tempi il governo si è fortemente impegnato e uno dei problemi che abbiamo avuto è stato il vero problema del referendum, perché negli ultimi tempi il governo ha cercato... Referendum non quello istituzionale, no, quello di Alitalia. Uno dei tanti referendum. Qui è stato detto no, diciamo. Sì. Sono successe fondamentalmente due cose. La prima, obiettivamente, degli errori da parte di Etihad. Tre errori. Primo, non, in quel momento, alla vigilia del fallimento, non aver preteso dal governo e dal sindacato un forte intervento per finalmente prendere il toro per le corna. Due, aver inviato in Italia dei dirigenti di primo livello, alcuni dei quali inadeguati e soprattutto che non conoscevano il paese. Oggi noi vediamo che ci sono degli aeroporti, città come Venezia, Bologna, Catania, fondamentali su cui l'Alitalia non c'è. E il terzo errore, che secondo me è forse il più grave, è quello di non essersi resi conto che il problema d'Italia non è solo un problema economico. Se arrivasse Paperon dei Paperoni con miliardi, non cambierebbe la situazione se non si modifica il modello di business. Sul tema azioni di responsabilità sarà doveroso fare quello che la legge prevede debba essere fatto una volta effettuati tutti i dovuti approfondimenti. Quindi prima dovremo fare tutte le analisi e le valutazioni del caso e successivamente, ove ricorrano i presupposti, saremo tenuti ad agire. Allora, nell'ordine abbiamo ascoltato l'ex presidente dell'Italia Montezemolo, analisi per carità da ascoltare. Faccio notare però che era presidente dell'Italia fino a qualche giorno fa, adesso non è che uno può svegliarsi sempre, direi, però tre errori, uno si può anche dimettere, esiste anche l'istituto delle dimissioni in questo paese se uno non è d'accordo con le linee aziendali, non che poi quando scoppia tutto tocca dare un prestito da parte dello Stato, allora e a quel punto ti sei dimesso, scopri le cose che non andavano, obiettivamente, E l'altra invece era la voce di Laghi, il commissario Laghi, che ha detto non escludiamo azioni di responsabilità nei confronti dei vecchi vertici, ecco perché le abbiamo messe vicine. Allora, professor Scarpa, anche nella ricostruzione di Montezemolo, se ho ben capito, c'è un'accusa, una critica alla gestione, diciamo, del sistema aeroportuale italiano. Vado oltre. Nella Vulgata si dice, insomma, Alitalia non ce l'ha potuta fare a riposizionarsi e quant'altro, perché nel frattempo è stato eroso tutto il suo vantaggio dalle low cost, non solo sul Milano-Roma, ma anche le low cost che portano traffico e passeggeri da Gran Bretagna, da Germania, dai vari paesi, che vanno su aeroporti diretti. E in parte la colpa è anche delle regioni italiane che hanno agevolato con accordi la presenza delle low cost in alcuni aeroporti. Le regioni dicono, beh, insomma, noi facciamo l'interesse nostro, se c'è un'offerta che aumenta il traffico di quell'aeroporto e ci permette di guadagnare, è chiaro che agevoliamo la presenza, a parte il fatto che saremo ancora in un libero mercato e libera concorrenza e l'Italia è un soggetto privato. Faccio notare una cosa, che la British Airways, che si è risanata e ha chiuso inutili i bilanci, anche l'Iberia, ha dentro casa in Gran Bretagna la seconda, penso più grande in Europa, si chiama EasyJet come low cost, e di fronte a casa, cioè a Dublino, ha Ryanair. Ora non mi sembra che questo abbia impedito a British Airways di rinascere, pur con un piano anche lì molto duro, ma il problema sono le low cost? No, il problema è l'Italia. Le low cost hanno allargato il mercato, se uno guarda gli ultimi 5 anni vede che il numero di passeggeri che hanno volato in Italia sia sul nazionale sia sull'internazionale è aumentato anche in modo molto consistente. Il problema è che l'Italia è stata totalmente incapace di intercettare questo, aumento del traffico, un aumento del traffico che è stato generato dalle low cost, che hanno capito dove la gente voleva andare, a quali condizioni economiche ci voleva andare e si è attrezzata per servire il mercato. All'Italia no. E quindi diciamo, il tema low cost è un tema, diciamo, una scusa in qualche modo? Ma fondamentalmente sì. E questo è anche forse, non è che uno può dire ah, sono stati loro cattivi perché hanno costi più bassi di noi e ci fanno concorrenza sleale. Ci fanno concorrenza, appunto, concorrenza lealissima. Se sono più bravi di fare il tuo mestiere, è giusto che loro stiano sul mercato e tu vada a casa. Mi piace, però è così. No, ma è come se una pizzeria dicesse di una pizza al taglio di fronte, ma quello fa la pizza, costa meno e ha più gente. Ho capito, cambia modello, no? Cosa facciamo? Chiudiamo la pizza al taglio così? Così limitiamo l'offerta perché tu possa sopravvivere a costi non di mercato e a margini non di mercato. A me sembra veramente il solito discorso di cercare una scusa per tutto. Detto questo, lei le responsabilità che lei vede sono del regolatore, cioè lo Stato, conferenza Stato-Regioni, piano nazionale di trasporti e dei trasporti aerei o diciamo dei manager, ex manager a questo punto, dell'Alitalia per non avere realmente creduto nella rotta lunga e quindi potenziato aeroporto, citava Montezemolo, Venezia, ma non solo, c'è Bologna, e potenziato con i velivoli la rotta lunga? Io ho parlato con diversi gestori aeroportuali, ho visto i loro conti, i loro piani industriali, sono loro che hanno il pallino in mano, non è lo Stato. Cioè, quando si parla del piano nazionale dei trasporti, piano nazionale sugli aeroporti, ma sono dei documenti che non hanno nessun impatto vero, perché alla fine sono i singoli aeroporti che sono normalmente delle SPA che non rispondono a un regolatore ma rispondono ai loro azionisti che decidono come comportarsi localmente. E notate che gli aeroporti italiani, a parte quelli minuscoli che chiaramente faticano a stare in piedi, no, quelli sulle città medie e medio-grandi vanno bene, prosperano, hanno ottimi accordi con le compagnie aeree che portano milioni di passeggeri e tutto questo è andato avanti bene per praticamente tutti all'interno del mercato aereo, tranne che per l'Italia. Quindi fatico a vedere la responsabilità del regolatore o di altri. E venendo invece, tra l'altro qualcuno mi scrive sì, attenzione, è vero che British Airways ha licenziato migliaia di lavoratori, ha acquistato anche una compagnia low cost, Vueling, però ha una strategia, l'abbiamo raccontata, anche quella di Iberia, anche la TAP, perfino l'Olympic assorbita dall'Aegean. Però sul fronte low cost, sono d'accordo con gli ascoltatori, l'abbiamo detto, cioè low cost hanno sì mangiato un po' di passeggeri dall'Italia, ma hanno anche ampliato la torta complessivamente, cioè volano più persone, non è che volino le stesse persone ma non volano più sull'Italia, perché molti hanno deciso di fare una vacanza, un viaggio, di andare in quel posto visti i biglietti del low cost. È ovvio che quando il biglietto è 80 euro e dall'altra parte costa 500, diciamo che voli tre volte, anche di più, anche cinque volte con la stessa cifra, ammesso non concesso che tu volessi spendere 500 euro per viaggiare. Che cosa ha sbagliato Etihad, per concludere, Scarpa? Tutto. Ha sbagliato la strategia di fondo, non è stata sufficientemente aggressiva, non è stata sufficientemente chiara nel volere sviluppare il mercato a lungo raggio, ha capito male il mercato interno, è stata evidentemente anche molto timida sul fronte del taglio dei costi, perché Alitalia è una compagnia che ha pochi piloti e moltissimo personale a terra ed è un modello di business che ormai segue praticamente solo l'Italia. Meno personale a terra e più piloti e anche più aerei, perché il pilota da solo fa poco senza aerei. Allora, nel ringraziarla, anzi ringrazio Carlo Scarpa e poi do invece due informazioni ancora sul tema da cui eravamo partiti, i rifiuti e tutti questi insulti che ricevo da romani, ma non solo. Sulla situazione attuale, perché a me fa impazzire questa cosa, tutti contro i termovalorizzatori, molti ascoltatori, come se la situazione di Roma in questo momento fosse un giardino svizzero, dice vabbè che ce ne facciamo del termovalorizzatore. Vediamo intanto al volo, prima di andare sul traffico, cosa fa Roma dei suoi rifiuti. Allora, 700.000 tonnellate di raccolta differenziata, 700.000 tonnellate è anche il numero di tonnellate che viene bruciato nei termovalorizzatori di Colle Ferro, San Vittore, Ravenna e in provincia di Pavia, o inviato nei cementifici o all'estero in Austria e Portogallo. 300.000 tonnellate vengono portate in discarica nel Lazio e nelle altre regioni o all'estero in Austria e Portogallo. Roma spende attualmente 14 milioni di euro l'anno per mandare i rifiuti solo per la parte austriaca, con cui l'Austria. Sono tre treni alla settimana che raggiungono l'impianto austriaco di Zwentendorf sul, sul Danubio, il quale poi lo trasforma in energia elettrica e dà energia elettrica a 170.000 abitazioni della bassa Austria. Roma paga all'Austria 138 euro a tonnellata, oltre ai costi del viaggio. La stima è che per smaltire i rifiuti fuori Roma nei prossimi 10 anni costerà questo 2 miliardi di euro. Beh, ci arriviamo, sono circa 200 milioni di euro l'anno, solo 14 ne paghi all'Austria. Ecco, questa è la situazione, a fronte della quale ovviamente il problema a Roma sarebbe il termovalorizzatore per produrre acqua calda e energia elettrica. Siamo d'accordo. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, prima del GR24. Allora, per quello che riguarda le novità nel disegno di legge sul lavoro autonomo, rimando a domani perché oggi abbiamo altri temi, ma lo voglio fare in maniera estesa perché riguarda moltissimi ascoltatori. E avremo anche la capacità domani, spero, di mettere in evidenza anche qualche criticità. Il testo lo stiamo vedendo in queste ore. La borsa, come accennavo, di nuovo il tema riguarda le trimestrali. A2A, che presenta utili di pertinenza a 180 milioni, vede crescere il titolo del 5,37%, stiamo parlando della trimestrale. In rialzo anche le stime sui margini a fine anno. Poi Campari, ancora la trimestrale di ieri, più 4,70%. Poi c'è Banca Mediolanum che guadagna il 3,20%, Snam l'1,70%, Buzzi Unicem l'1,70% anch'essa, e stima Microelectronics più 1,60%, Tenaris più 1,5%, Recordati più 1,40%. Mediaset, effetto conti su Mediaset. Ieri a borsa chiusa Mediaset ha comunicato i conti del trimestre, l'utile a 15 milioni, utile netto 15,9 milioni contro una perdita di 18 milioni nei primi tre mesi del 2016. I ricavi sono leggermente più bassi, però sono diminuiti i costi operativi. Il titolo comunque viene premiato più 1,24%. Non viene premiata invece Biper Banca, dopo la trimestrale di ieri che ha evidenziato un utile dimezzato a 14 milioni 600 mila euro. L'amministratore delegato di Biper, Vandelli, ha frenato sull'ipotesi di un'aggregazione con Unipol Banca. Non c'è niente sul tavolo. Il titolo, per i due elementi, perde il 5,66%, Prismian meno 3,50%, Unipol meno 2,20%, Banco BPM meno 2,12%, Banca Generali meno 1,20%, Ferrari meno 0,90%. Cito anche Eni perché anche Eni oggi ha diffuso la trimestrale più 0,50%, torna all'utile, utile netto a 965 milioni di euro contro una perdita di 383 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno scorso. Migliori e peggiori in assoluto: Invest più 18,40, Exprivia più 16,20, MacLink più 10,90, Pronto Posto, Biper Banca meno 5,60, Dada meno 5,40, Energy Lab meno 5,30, Health Italia meno 4,50%. Andiamo sul GR24, vedo un'agenzia però che riguarda le vedevo un'agenzia che riguardava le dichiarazioni, eccole qua, di Ferruccio De Bortoli, rese poco fa. Durante la presentazione del libro sono assolutamente tranquillo e sicuro della bontà delle mie fonti, in riferimento alla polemica scatenatasi sul fatto che l'allora ministra Maria Elena Boschi avrebbe chiesto all'allora amministratore delegato di Unicredit di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Non ho parlato di pressioni, ma mi è stato riferito da una fonte vicina a Unicredit e sono assolutamente tranquillo e sicuro della bontà delle mie fonti. Faccio notare che appunto non è arrivata nessuna smentita ad ora da parte né di Unicredit né dell'ex AD Federico Ghizzoni. GR24. GR24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente. I wanna be free, set free. Sì, parliamo di noi, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo di noi perché tra i settori economici, come avevo anticipato, di questo paese c'è anche il settore dei cosiddetti media, e quindi televisione, radio, giornali, mensili, settimanali, agenzie di stampa, e un settore che è stato colpito come altri settori di questo paese dalla crisi, intesa come crisi della raccolta pubblicitaria, sì, dopo il 2008, ma che anche in questo caso, come altri settori produttivi di questo paese, aveva visto nascere la difficoltà ben prima del 2008 e continuare anche dopo il 2010, perché quella che è in corso non è solo una crisi di investimenti pubblicitari, che in parte sono anche tornati e che sono tornati anche su altri mezzi, è una rivoluzione vera e propria, un cambio di paradigma, come dicono quelli che hanno studiato. Anticipo la battuta: il Sole 24 Ore ha avuto problemi di altro genere, oltre su cui appunto lasciamo massimo spazio alla magistratura e alla Consob. Qui stiamo parlando del settore e dei dati, diciamo, del settore. Do un'immagine, quella, l'ultima indagine di Mediobanca sull'andamento dei giornali italiani. Negli ultimi 5 anni i ricavi sono scesi complessivamente del 32%. La diffusione dei giornali è scesa del 34%, cioè si è perso nel paese una copia su tre, sostanzialmente, ne hai una in meno. O per essere più purista, ogni 10 copie ne hai perse 3. Nei primi 9 gruppi editoriali del paese si sono persi 4.500 posti di lavoro. Parliamo dei primi 9 gruppi editoriali, quindi praticamente quasi tutti, su 17.600. Anche qui siamo intorno al 30% di posti di lavoro in meno. Le copie giornaliere, secondo i dati ADS che certifica le vendite dal 2007 al 2016, sarebbero passate da quasi 6 milioni a 3 milioni. Vendite dimezzate anche per le prime 6 testate nazionali, cali solo in parte compensati, dalle copie digitali. Ma dicevo, se la stampa, i giornali non se la passano bene, non ride la televisione, che ha anche avuto un percorso di concorrenza dovuto ai canali tematici e di frammentazione in quello che è il numero di ascoltatori, quindi non solo lo share ma il numero complessivo di ascoltatori. Le radio tengono un po' meglio come raccolta pubblicitaria, hanno quella che, e vengo al motivo per cui ne parliamo, Vittorio Meloni nel libro appena uscito, casa editrice La Terza, Il crepuscolo dei media, informazione, tecnologia e mercato. Dicevo, il mondo radiofonico viene chiamato resiliente, cioè ha avuto una sua capacità dopo la botta presa con l'avvio della TV, della TV commerciale negli anni, fine anni 80, anni 90, ha avuto una sua capacità di resistenza. Vittorio Meloni non fa di lavoro l'operatore dei media, nel senso che non sta da questa parte della barricata, lui sta dall'altra parte della barricata, è attualmente direttore delle relazioni esterne di Intesa San Paolo, lo è stato anche di Telecom Italia e di IBM. Buonasera intanto a Vittorio Meloni. Buonasera. Dicevo, ti do del tu perché ci conosciamo da molti anni, ma questo non, certo, non rappresenta un vincolo nell'intervista, diciamo, anzi... Tu hai vissuto i media dalla parte opposta, diciamo, senza nessuna diciamo, acrimonia, ma dalla parte di chi rappresenta grandi gruppi, Intesa San Paolo, Telecom, IBM, e ti sei confrontato con questo mondo. Partiamo dalla parte più, che a me fa più male, perché insomma racconta un mondo che non c'è più, innanzitutto da un punto di vista economico. Devo andare per passi di estrema sintesi. Che cosa ha creato e innescato questa rivoluzione, questo cambio radicale? Il web, internet, il digitale? Ma questo è sicuramente stato il cambiamento più importante degli ultimi 10-20 anni, perché ha introdotto un mezzo che non c'era, che si è aggiunto alla filiera di mezzi che erano nati a partire dal XVIII secolo con le gazzette, poi con i giornali strutturati del Novecento, la radio, la televisione. Quindi questa nuova struttura, da quest'anno internet sarà il più grande mezzo mai comparso sulla scena della storia in termini di ricavi che riesce ad attrarre da tutto il mondo, dagli investitori. Quindi è questa sicuramente la causa più importante di questo cambiamento, e questo cambiamento non è ancora terminato, cioè è tuttora in corso. Io racconto nel libro, che mette insieme una serie di elementi di valutazione di dati oggettivi, quanto la rete abbia ormai sostanzialmente cannibalizzato buona parte degli altri media, a cominciare naturalmente da quelli più attaccabili, che erano i giornali, la carta stampata, ma oggi mette in discussione anche la lunga leadership delle televisioni, che vedono una alternativa nella rete sia come contenuti che come struttura distributiva. Allora, la carta stampata, tu dicevi giustamente, era quella tra virgolette più facilmente attaccabile. Prima domanda: il crollo dei lettori, che anche tu certifichi, insomma, citando il Censis, ma lì siamo il 30% in meno, mal contati, in questi ultimi anni, è stato un crollo dei lettori dei quotidiani o un crollo dei lettori tout court? Voglio dire, qualcuno si è solo spostato dai quotidiani al web, perché se fosse così uno dice, vabbè, attenzione, tu non hai perso lettori, hai perso la fruizione da parte dei lettori di quel mezzo, la carta stampata, che si spostano sul digitale. Nel qual caso non dovremmo avere grossi problemi? Ma sì, questo probabilmente è avvenuto, anzi per una quota rilevante è sicuramente avvenuto, con la differenza che però sul digitale, o meglio io direi sull'online, perché poi il mondo digitale ha delle piattaforme a pagamento anche per l'editoria che in altri contesti vanno molto bene, sull'online non viene riconosciuto alcun valore al contatto con la notizia. Quindi questo trasferimento ha portato solo una perdita di lettori e una perdita di ricavi. Poi diciamo i lettori paganti che hanno rinunciato all'acquisto del quotidiano e in generale della carta stampata sono ben più del 30%, sono circa il 50%. Il trasferimento sull'online però ha portato un beneficio marginale, ma decrescente, vistosamente decrescente, in campo pubblicitario. Cioè i giornali italiani soprattutto hanno scommesso sul traffico di internet e hanno trasformato i loro giornali in portali di informazioni ibride, in cui c'è di tutto, c'è anche l'informazione mainstream, come si dice, ma c'è anche molta roba che non c'entra nulla con l'informazione in quanto tale, che porta traffico, il quale traffico dovrebbe portare pubblicità. Ecco, questo modello è in crisi in tutto il mondo. Nel frattempo i quotidiani in particolare hanno perso la loro base tradizionale di lettori senza acquisire nuovi lettori e senza sviluppare in modo adeguato piattaforme digitali. Questo è il grande problema, allora, cioè la transizione verso il nuovo mondo non si avvale di strumenti adeguati a sviluppare nelle piattaforme digitali un nuovo mercato. Dopo il traffico ti chiederò le colpe nostre, dei giornalisti e di chi insomma ha gestito questi processi, e anche qualche elemento di speranza, se giochiamo tutti nello stesso, però con le stesse regole, nello stesso campo da gioco. Una battuta prima del traffico, però tu ti stai concentrando molto sui giornali. Il ragionamento che hai fatto vale mutatis mutandis anche per televisione, forse meno per la radio, ma insomma. Assolutamente. Ma la radio, abbiamo detto, è resiliente anche se ha cessato, salvo rari casi, tra cui diciamo il Radio 24 e ciò che resta del sistema pubblico, perché diciamo le radio nel loro insieme hanno cessato di fare informazioni, quindi siamo nel campo diciamo dell'entertainment musicale prevalentemente. Le televisioni soffrono tantissimo questo cambio di paradigma, come tu dicevi all'inizio. Pensa che nel prime time, cioè l'area in cui si affolla il picco massimo di audience televisiva, che in Italia assomma circa 26 milioni di utenti tra le 8:30, 9 di sera e le 10:30, 11, la perdita di quote di mercato delle reti generaliste è pari al 20% e nella fascia d'età tra i 18 e i 34 è del 55%, quindi lì un giovane su due ha smesso di guardare televisione. E vanno su altre cose, a chi mi chiede dove vanno, guardano YouTube, si guardano in streaming? No, ma anche rimanendo nella televisione in 10 anni è passata da essere diciamo, un sistema che si avvaleva di 7-8 canali nazionali, certo, a un sistema che ce ne ha quasi 200, quindi c'è stata un'enorme polverizzazione delle audience, e poi sono arrivati i nuovi minacciosi competitor che sono gli over the top televisivi, cioè i vari Netflix, Amazon, eccetera, che vendono senza infrastrutture televisive ma direttamente all'utente finale contenuti televisivi. Ah, che certo, produzioni, sempre, produzioni televisive che ti guardi su qualunque, quelli che si chiamano device, te lo guardi sul telefonino, te lo guardi sul computer, te lo guardi anche sul televisore, ma non è più importante il device, cioè lo strumento, l'oggetto. Anzi, non c'è dubbio, anzi, come io scrivo nel libro, lo Smart TV, cioè la televisione di nuovo tipo, è il cavallo da Troia definitivo di questi operatori, perché entrano dalla porta principale nel salotto di casa delle famiglie direttamente sul televisore, cioè non c'è neanche bisogno di una consuetudine particolarmente sviluppata sul piano tecnologico, perché arrivano lì direttamente. Vabbè, cioè, basta Wi-Fi, lo dico a chi mi scrive, basta Wi-Fi, per cui... E te li metti sullo schermo del televisore, che però diventa, non è più il televisore come lo conosciamo noi, è uno schermo. Allora, a schermo tu scegli lo schermo del televisore grande che hai in salotto, lo schermo del televisore magari più piccolo del tuo portatile, o lo schermo ancora più piccolo del tuo telefonino se sei in viaggio, ma non stai più parlando del mezzo che diventa media, adesso non vuol diventare troppo alto, ma è semplicemente uno schermo, e tu scegli dove vuoi vedere questa cosa, su quale schermo. Voi capite che cambia il mondo, anche perché invece con lo schermo televisivo faceva palinsesti e produceva televisione. E dopo il traffico, gli errori fatti dalla mia categoria, e però una possibilità di speranza, ti anticipo già, dovuta proprio al tema delle fake news. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Beh, il sogno è poter vedere risorgere la stampa intesa come giornali, media e giornali, televisione e radio, e poter combattere con i nuovi mezzi sullo stesso piano di gioco, con le stesse regole, e qui vi arrivo tra un secondo. Però Vittorio Meloni, brevissimo, ma gli errori che abbiamo compiuto noi come giornalisti e anche i manager dei giornalisti, chi ha gestito i gruppi editoriali, e magari anche i casi virtuosi di Speranza. Beh, io non vorrei fare quello che dice ad altri che fanno quel mestiere da anni come va fatto il loro mestiere. Non c'è dubbio che se un errore fondamentale c'è stato è considerare questo nuovo che avanzava, che non è arrivato l'altro giorno, ma diciamo da anni intorno a noi, come qualcosa di ancillare rispetto al flusso principale di informazioni, come se quella, diciamo, aura sacrale dell'informazione tradizionale fosse di per sé in grado di difendere l'ancien regime. Dopodiché il secondo errore, funzionale a questo, che se vogliamo è un errore culturale, è di tipo invece editoriale: pensare di poter vendere pubblicità a compensazione di un ricavo da vendita che progressivamente diminuiva. Si è visto che questo, diciamo, purtroppo non funziona e funzionerà sempre meno, perché tutto il mondo dell'informazione che conta si sta spostando su modelli cosiddetti senza pubblicità, cioè la vendita dei contenuti. Per farlo c'è bisogno di sviluppare piattaforme digitali e di spostare il proprio mercato lì. Questo è il grande ritardo dell'editoria italiana. Chi è che c'è riuscito nel panorama? Chi è che è riuscito a fare questa operazione? C'è qualcuno? Beh, grandi testate internazionali, non so, il New York Times, che diciamo ha dovuto fare i conti con le sue difficoltà di contatto con l'opinione pubblica del suo paese in epoche recentissime durante le elezioni Trump, fa ormai 1.600.000 abbonamenti digitali su 3 milioni di venduto quotidiani, punta ad averne 10 milioni nei prossimi 5 anni utilizzando modelli tipicamente digitali della rete, tipo Spotify per intenderci, cioè vendendo su piattaforme proprie e altrui i propri contenuti a pagamento. Il Financial Times, che è, diciamo, l'equivalente in lingua inglese del Sole 24 Ore, fa circa 850.000 copie al giorno, l'80-85% delle quali sono digitali. Credo che possa decidere di abbandonare la carta stampata da qualsiasi momento in avanti, perché il grosso dei suoi ricavi vengono da lì. Sono due grandi testate che usciranno dal mondo della raccolta pubblicitaria diretta. Beh, o almeno quel mondo sarà marginale. Però per farlo bisogna avere... Scusami, ti ho interrotto? Bisogna avere una base di lettori digitali. Il ritardo italiano, che non è solo il ritardo dei giornali e dell'editoria, è un ritardo dell'economia che è poco digitalizzata, e che con un'economia poco digitalizzata, in cui i collegamenti wifi sono la metà di quelli che troviamo in Inghilterra e in cui l'attitudine all'utilizzo di contenuti digitali è più bassa che in qualsiasi altro paese d'Europa, è difficile trasferire ciò che era analogico, che nel caso dei giornali vuol dire la carta stampata, sul digitale. Però se non si fa questo sforzo, tutto il paese rimane indietro, non è un problema dei giornali, i giornali sono lo specchio del paese, quindi diciamo che la priorità per gli editori, per come la vedo io, è cercare di utilizzare queste piattaforme. Tu dicevi prima le fake news, ecco, quelle sono... No, adesso ti interrompo un secondo, io volutamente invece, Vittorio, perché se ho ben capito, noi come categoria, la dico male, ce la siamo un po' tirata con l'autoreferenzialità, immaginando che tanto nulla avrebbe scalfito da questo punto di vista il nostro prodotto. Per quello che riguarda l'errore, diciamo, manageriale, è aver trasformato i siti dei giornali in piattaforme per avere molto flusso, ma invece quello che tu ci stai raccontando, New York Times, Financial Times, sono i contenuti che viaggiano, non più il sito del New York Times e basta. I siti sono in contrazione. La mia speranza è questa. Il tema delle fake news, se noi come giornalisti ci mettiamo a fare il nostro lavoro e rivalutiamo, valorizziamo quella che è anche una catena di controllo che è fatta di vari passaggi, vari gradi di controllo e professionalità, io penso e spero che il lettore più avvezzo capisca che poi nelle fake news, cioè nell'informazione gratis, ci nascondono anche le fake news, non sono solo fake news, ci mancherebbe. Ma una vecchia regola dell'economia dice che in economia non esistono pasti gratis. Certo che devi dimostrare tu come giornalista, come gruppo editoriale, che il tuo pasto costa per qualche motivo, perché sennò io vado sul pasto tra virgolette gratis, quella è la notizia, diciamo, gratuita che arriva in rete, che però può essere anche fake. Vorrei capire da te, per concludere, se pensi che da questo tema dell'affidabilità della notizia possa nascere o rinascere una rivalorizzazione del lavoro giornalistico. Aggiungo però, a patto che tutti, Vittorio, giochiamo con le stesse regole. Io come giornalista sono sottoposto alle querele, alla diffamazione a mezzo stampa come reato e quant'altro, e giustamente poi si querela per soldi e per la diffamazione. Mi risulta che nella rete uno scriva quel cavolo che vuole, non vedo tutte queste querele per diffamazione ancora, per cui insomma vorrei giocare nello stesso terreno. Detto ciò, dal tema fake news può rinascere una valorizzazione, se facciamo bene il nostro lavoro, del nostro lavoro? Io penso assolutamente di sì. Io penso che il giornalismo non morirà mai, perché il giornalismo è una necessità fondamentale della vita sociale moderna, contemporanea, almeno nei paesi liberi. Quindi io credo che non è in discussione la professione, ma la modalità con cui la si esercita. E ad esempio una delle grandi opportunità che questo cambiamento offre è quella di sfruttare, come stanno facendo alcune grandi testate nel mondo, queste nuove piattaforme distributive. Siamo in quel flusso di dati e di notizie, fake news e quant'altro. Bene, allora andiamoci fino in fondo, sfruttiamo la potenza di quel mezzo per affermare il giornalismo con i suoi contenuti di correttezza e di credibilità anche in quel mondo. Vuol dire adottare anche dei modelli, gli instant article. Ci sono tante formule che vengono applicate oggi all'antica editoria per entrare nelle nuove piattaforme distributive, perché tra qualche anno saranno le uniche che trasporteranno, certo, insieme alle piattaforme digitali proprietari i contenuti. Quindi questa è la sfida. Le fake news non si combatteranno mai dall'esterno, bisognerà certo, assumere una leadership dentro queste piattaforme. D'accordissimo con te. A chi mi scrive anche voi ne avete fatte di fake news, guardi, non so, ognuno risponde per sé. Dico solo che quando io scopro una notizia sbagliata c'è un meccanismo di comando e controllo, si sarebbe chiamato, per cui uno risponde al suo capo servizio, al capo redattore, al vice direttore, c'è la querela a mezzo stampa, c'è la diffamazione. Mi sembra che quando uno scrive delle fake news su internet, è già tanto se capiamo il soggetto fisico che le ha scritte, è un po' diverso, eh. Grazie a Vittorio Meloni, grazie per gli stimoli che dà il libro Il Crepuscolo dei Media, informazione, tecnologie e mercato, editori La Terza. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.